Signor Giomarini. Dimmi. Buonasera, caspita. Dormito ieri. No, ieri in ciafuglia da computer. Così che di tutti i tipi li ho visto. Vedi dopo guia. Un appassamento di beni. Sì. Vuoi un bel denaro vivo per comprarli tutti. E a da voi. Si piace un negozio. E allora, compra vedi da voi. Ma cosa vuoi fare? E c'è Fugliese qui c'è a Baidese. Tanto mamma salura là. Ehi, caspita. Ehi, uiuia. Non si può fare nulla. Ci vogliono tanti soldi e soldini. Ma Baidano si non se ne spendono soldi tu. Lui non riprendeva, Baidano si, non si baga, capito? Per cui tanto va a passare un tempo, ecco. Non ci serve niente, non avremo. Certo. Da, ce l'abbiamo già. Di che se non se ne manca? Di che se non se ne manca di tempo? Infatti, così che... Com'è la radio questa? Ah, sembra buona. Cioè, è abbastanza buona. Sempre 4 watt, eh. Ma sta tranquillo, da anche chi non esce. Stanno tarato così bene che da lì non esce. Infatti. Mi manca un po' sì, ma di più no. 4 watt, ma è a voglia. E poi... Ma sai, arriviamo con 4 watt. A Nova York. Infatti. Sono tarati così questi qua, per 4 watt e di più non escono. È precisi, eh. Quelli escono così dalla casa direttamente. E basta. E cosa vuoi fare tu? Oh, è acceso l'apparecchio, mi. Mi ha acceso già un'oretta e più. Ma ero a vedere il computer. A vedere un po'. E l'ho visto in tutti i colori, in tutte le maniere. Grazie mille, ma solo a Baidano basta, boh. Infatti è così. Questi qua vanno così, vanno. Ce ne sono in tutte le maniere, ce ne sono. Fino a Vivoni va a comprarli tutti. Non sai chi scegliere più. E poi cosa le fai tutti? Basta uno. A comprare tutti e cosa le fai? Se devi sbarciare va bene, ma li compri dopo non te ne compra nessuno, così che te li devi. Sì, a me già mi basta chi trova. Ce n'è in abbondanza. Solo che devo guardare di trovare il coso, il segno chi, ma non me lo dà qua. Riesce però non me lo dà il coso, devo trovarlo a vedere come farlo uscire. Ma cosa devi trovare? Il segno TX che c'è, però bisogna girare tutto nel coso per cercarlo. Ho capito, ho sorriso con gli oedi, ma che un apparato è? Oh, qua nel mio apparato mi dà il segno quando sto modulando, sì, hai capito? E quello lì, come l'ho messo, me l'ha tolto. Però lo devo cercare di farlo uscire. Ma il segnale? No, quando premi che stai parlando, ti esce il coso, le frecce, il segnale, e più ti esce anche TX. Ah, se te l'ha detto prima, te lo devi trovare adesso, capito? Ma quando accendo l'apparato mi esce tutto e poi sparisce, esce solo il coso, il canale, la frequenza, AML è il segno di recensione e il segnale di trasmissione. Bisogna entrare sempre su un menu e girare, piccolo trovi quello lì. Capito? Bisogna girare, sempre se sul manuale c'è che te lo dà, capito? Perché se non c'è sul manuale non te lo dà, eh. Che c'è nel manuale? Nel manuale c'è, però non lo spiega come metterlo. Quello dove trasmette? Sulla banda B o sulla banda AC? Sulla banda 1E. Italia, nella cosa di italiano, Italia. Perché ce ne sono tanti di virus, capito? Perché ce ne sono quelli che trasmetto sulla A, quello sulla C, ce ne sono che trasmetto ad esempio in Italia con la D, perlomeno gli apparati prima sono quasi tutti sulla D. No, perché questo quando l'ho ricevuto era in coso UE, anzi no, c'era, però no, non dava nessuna cosa, dovevo impostarlo io. Infatti come l'ho impostato ho messo IE e mi è uscito tutta la frequenza e tutto quanto. Perché quando esco ad arrivare così con la marca Unione Europea, capito? E dopo devi impostare tu l'apparecchio. E quello è. Oppure glielo dici a loro, te lo impostano loro, capito? Perché ci sono certe ditte, magari tu ordini un apparecchio, se lo vuoi espanso non te lo fanno loro, se no te lo devi espanderlo tu. Sì, già me lo cerco io, piano piano, quando faccio un minuto di tempo in mongo a cerca. Vedo un po'. Qua per esempio c'era l'ecco e non me lo trovo, e ho provato e non sono riuscito a trovare, eppure c'era l'ecco. Quegli apparecchi che c'hai tu? Ehi! Ci sarà un tasto per cercarlo. Devo entrare sempre in un menu e cercarlo, capito? Perché c'era prima, poi mi è sparito e non l'ho trovato più. Vuole cercato bene, bisogna cercarlo e metterlo. Vabbè, no che mi interessano, però così, perché se ho provato un tasto c'è, però no, non esce, evidentemente bisogna memorizzarlo. Infatti, bisogna memorizzare tutto qua, bisogna cercare un minuto di gozo, di tempo e si zecca. No, comunque, quello tuo è un bel apparecchio, eh. È un bel apparecchio, l'ho visto, è bello, veramente bello, poi non è piccolo come quello che ho preso io, è più grande, capito? È più grande, è più bello, è bello, dai, è bello tu, hai fatto un altro acquisto buono. Stavo guardando al computer poco fa, Presidente Grant 2, quello lì è omologato. Il Presidente 2. Mi stavo cercando, mi sembra che c'è. C'è già acceso, ce ne sono staccaccioli. Dopo lo guardo e vedo un po' quanto. Ma forse non c'è in Italia, forse nei Paesi Bassi. Ma c'è anche in Italia, c'è. Ed è omologato, c'è omologato. Ed è c'è in AM, FM. Non è così, negli altri canali sale di watt sono 4 watt e negli altri canali nei USB te ne da 5 watt. Aspetta che guarda, c'è la pagina, là, aspetta un po'. da Gianmarì. E quanto costa? Qual è quel presidente di Grant 2? $2.85. Quanto? $185. 185. 2.85. Ma io sarà le macchino. Infatti chi ce crede di Zendio? Ah sì, sarà le macchino, aspetta. Aspetta. Ma quello c'ha anche le bande. Sì, c'ha tutto quanto c'ha. Solo che così lo devi adoperare in AM con 4 watt, 10 in 4 watt. In FM 4 watt. E USB 5 watt va. Non di più. Ma quello non si può usare, noi non lo possiamo usare to. Perché, catta. Le bande in 40 canali cosa fai? Non, ah, li puoi usare, no? Te lo dà così, te lo dà. No, che c'ha anche, va su 80 canali e va a 40 su e 40 sotto va. Ehi, assili bene, detto. Lui. Ma lo sai che quello che ti ho fatto vedere io, ma ti piace? Quello che mi hai mandato nel telefono. Ehi, con quello display azzurro. Ehi, è quello lì, lo so che quello è, va di più, va, ma non è come deve essere. Aspetta, vedi un po' quanto costa, boh. No. Oi. Ah, li lasciamo dove sono. Chi è che stava ammaiando? Avanti. Ma mi sembrava Luca. Dai, dammi così. No, già sono figlio, già sono meglio. E come me si convinto, eh? È la volta che sento che stai lottando. È vero. Ehi. Allora, senti tu. Ma cos'hai mangiato? Ci passa al forno? No, poi ci passa le pizze con la pomodoro. Ah, pensavo, perché tu ne vai pazzo per quella pasta così. Riprendi tu. Ma la devi lasciare però la pasta asciutta, che sennò da voi diventa un bullo. Oh, ito. È bello, però non lo... Oh, io, no, cosa ne faccio? No, no. Ce n'era uno che mi piaceva in 40 canali spesso. Mi sembra che l'ho visto adesso, aspetta, un attimo. Ciao Luca. Ebbè, tutto bene, sì. Secondo come ti sei andato, leggero, gli arugrivo, mangiano ghizzo per freschizzo. Ma che cosa sotto la freccia? Cosa accolto? Ma rosso, quasi sola. Allora ce l'avevi da ieri già incorporato. Guardare il giorno, tra giorno fa. Sì, un paio di giorni. Un paio di giorni dura questo. Proprio va che pizzigheggia. Invece no, che ti danno i zeri e non ti succede nulla. Vero to. Tutto è tranquillo. Cosa Gianmarì? Sa quale che mi piace a me. Che ha tale cosa? Il 4.90, Intech. Oh. Ma quello cosa è? AMFM solo. AMFM allora. No, tanta cosa non mi interessa. Il 4.90 è fatto come questo, mi solo che gli manca il coso degli spinuti, basta, non c'ha altro. È come questo che c'ho io. Beh, è bello, vai, c'ha un bel di roba, vai, davanti, che è bello, vai. un bel bello. È la stessa cosa, Però costa di più di chi ci va giù. Ah? Costa molto di più di quello che c'ho io. Ah, certo, c'ha dove, mi sembra così. Questa qua ne costa, fai in tutto 95. Certo, 95. È più il trasporto. Sono più di 120. Ma questo 95 con spedizione gratuita. È bello, quello è bello, no, quello è un apparecchietto bello, sì. Poi anche il colore, il display è bello, capito? Infatti, ma l'altro, quello che stai dicendo tu, è lo stesso colore di quello, c'ha stesso tre tastini, non c'ha il box, quello lì, non c'ha. E non c'ha neanche i cosi per gli auricolari, per mettere le cuffie, ecco cos'è. E costa 119, costa, mi pare, una cosa così. L'attacco ce l'hai dietro per le cuffie, tu. Ce l'hai avanti per l'attacco delle cuffie, tutti gli baracchini, ricordate bene, c'hanno l'attacco delle cuffie, la maggior parte l'hanno tutti dietro. Capito? E quello lì, quello che sto dicendo io, ce l'ha dietro, ce l'ha. Sì, quello sì. No, ma io ti stavo dicendo che questo che c'ho io c'ha gli attacchi davanti per l'auricolare col microfono. Ecco cos'è. E in più c'ha un altro coso per attaccare, per far funzionare con il dito a pressione per parlare, senza usare il microfono manuale. E i Vox, c'ha i Vox, ecco, tutto lito. E c'ha i Vox anche quello, là. C'è due cose in più c'ha. La costa 95, ecco cos'è. Ma c'è quella che costa 119, ecco cos'è. Aspetta un attimino. Beto! Sei a Gianmarì. Ok. Non abbiamo niente, non i biglietti, non i che cosi. Già, veramente, siamo tranquilli, to. Sì, noi siamo tranquilli, va. Certo. Viene pizza e pari bucca, va. Infatti, allora. No, quello là già mi piace. Quello lì che c'è 140, no, o 190, quello è già. Ma però non li prendo, no, ce l'ho, io cosa le faccio? Non le faccio niente. Sì. Poi c'era un altro bello, aspetta, te lo dico qual è, un attimo, c'era un altro bello, sempre 40 canale, AM, FM. Delta LT 300 318, anche questo è bello, Sì. Sono tutti belli, Giomarì, solo che non ne fai più nulla adesso, ti basta che sei lui che vai ed io mi tengo il tuo che faccio, boh. Ma chi mi sa che ma ieri sera è entrato, no? Sì, che è entrato e sono passate su 22, in quanto su 23 c'era un giambotto nero, mentre invece 22 era più libero, sono passati là, ma io avevo già chiuso, comunque già l'ho salutato come è entrato, sono salutato e me ne sono andato, capito? No, io avevo chiuso perché stavo andando a prendere la signora, avevo avvisato, ma... non so se mi hanno sentito, io sono andato a pigliare la signora. Io ti ho sentito, che sei andato a prendere la signora. Lui è entrato dopo, ma è stato poco, perché anche lui doveva chiudere, che era l'ora già dell'affare, si sente come dice lui. Poi l'ho lasciato su 22 con Marco, e mi sembra che c'era anche Giulio, Graziano, e non so dopo se sono trattenuti oppure no. E di sicuro avranno chiuso alle 8, avranno chiuso come sempre. infatti, sa, no, ripeto, io dato che sei qua, no, certo, non c'era nessuno, mi sono acceso il computer, prima ho guardato la portatura delle, quando era la, il periodo della portatura degli agrumi, si è incominciato al mese scorso, e tutto questo mese che si può portare dopo. Ho girato e mi stavo guardando i baracchini, perché ogni tanto ne escono nuovi, capito? Che, ma tanto per guardarmi, non per comprare, perché non ne faccio niente, basta uno e anche troppo adesso, capito? Capito? Tutto lì, no, niente di più, ecco. Anche l'occhio vorrà la sua parte, no? Ma come dico, ci buru, si ingannano. Perché guardare e abbedirsi, ma prendere, invece no. Noi ci siamo calmi adesso. La spesa l'abbiamo già fatta. Infatti, non l'abbiamo già fatta. Niente voglia. Vabbè, la spesa ormai l'abbiamo già fatta, è tranquillo. È fatta così. Sembra che si è... che si è abbassata un po' il QRM. Aspetta che c'è mio nipote, sai c'è da cosa. Eccoci qua, noi siamo qua. Stavo guardando il coso nel telefono. C'era mio nipote che sta andando a lavorare, è entrato a salutarci. Che fa il turno di notte lui. Quindi lavora stanotte. All'ospedale di Alghero sta lavorando. Certo, è meglio dice che nulla. La Ugrini. Bisogna andare, se no. Infatti. Meglio quello che nulla dice quello. Ma. Dai, fra poco entra la bacchiglia, così che chiacchieriamo di più, dai. E abbassiamo almeno una mezz'oretta, capito? Gira, facciamo così, speriamo che oggi entri. Mari, io ti devo lasciare, che vado a prendere la signora, ma ci mandava. Ok, ci sentiamo dopo. Grazie, sotto. Attento, Marchisio. Marchisio. Allo, messie, Marchisio. Maria. Marchisio. Marchisio. Attenzione, signor Marchisio. Marchisio. Marchisio. Marchisio! Mi senti? Adesso sì. Ma non mi senti perché non c'è l'antenna, e non cominciamo a staccato. Come mai? Sto staccando un po' di pappardella, non c'è qua. Come pappardella? E questo QRM? Ci arrivo di qua, no. E gli ho inserito, allora l'ho staccato, avevo cose. Se mi dà attenzione io no. Adesso si è a posto. Questo sono regolari. Ma come cosa mi racconti? Io ce l'ho a sentire. Io sì che c'ero, ero in quel canale lì, dopo voi siete passati nel 22, io sono andato a prendere la signora. Hanno sicurato era tutto già rato. Sono 10, non lo vengono chiuso, non c'è nessuno. Sì, sono andato via io alle 8:25. No, non sto chiudendo. Ma erano nel 22 erano, no? Ho sentito si ho sarrato. Ma come io sono 22 perché ero sul 23. Io sono 22. Allora. Perché c'era meno QRM lì? Come ragazzo c'era io sul 23. Sì, quando è così bisogna cercare un canale pulito e guardare dove è il canale pulito. Anche quello. secondo tiro, la prima che è già caldo. È già caldo? Strano. Certo. Ma non per scaldare. Pure è caldo. Sopra è caldo. Non lo so perché. Certo, vabbè. Si vede che cosa, no? Sì, ho tolto un po' di carne, che mette un po'. Perché non sia che ci sia un torcerore, non c'è nulla. Che c'è per caso la corrente è troppo alta, no? Non è regolabile. Ma sai che attacco sul coso? Sul cinese, magari. Cosa ne hai attaccato? Uno più piccolo di alimentato? Più grande, stiamo usando quello da 20 ampere, ci ha attaccato solo da... cose che non sia troppo alto di voltaggio, invece di essere 13,3, 13,5, che non sia di più. Non so quanto ci sia, solo che stiamo usando, e vedi, cioè invece che il coso di base di corrente è troppo alta. Non lo so, ci proviamo, cioè... Ciao Marco. Ehi, ma lo sai che questo disturba Bacchisio sotto? A me no. Ehi, sotto, perché in FM senti tutto un rumore sotto. FM dov'è? Io sono in AM. Ehi, Anne, che problema c'ha l'alimentazione lì? Marco, a noi non ci fa nulla. E io lo dicevo che problema ha Bacchisio di alimentazione? No, sia che non sia che sia troppo alta di alimentazione. Ma lui da cosa se ne accorge? Si sta scaldando il baracchino. Oh, più del dovuto. Beh, ci vorrebbe un test per misurare l'uscita della tensione dell'alimentatore. Perché di solito il baracchino tollera un 10% più o meno, no? Se non è 13,8, ma anche se 14 non dovrebbe succedere niente. Certo, se va già a 15 comincia a salire troppo. No, se è 14 è troppo. Dovrebbe essere in tolleranza a 13,8 il massimo, ma non di più. Oh, io ho provato anche 14, non gli fa niente, di solito la tolleranza c'è magari del 5%, boh. Se scalda l'importante è che non abbia stazionarie, cosa mi viene in mente? Boh. Penso che ne abbia la stazionaria, ma detto che ne abbia uno e uno, vero signor Bacchi? E quindi sei a posto. Oh, è sempre caldo. Boh, vuol dire che è scalda allora. 16,79. Sì, c'è un po' di tolleranza, ce l'ha. Comunque non dovrebbe scaldare. Oh, poi dipende anche che baracchino è. Certi baracchini scaldano più di altri, anche senza stazionarie, con l'alimentazione giusta. E poi in estate non te ne dico, mi. Qui su Burue, anche d'estate, ma se è areggiata non dovrebbe scaldare il parecchio. E oggi niente, non c'era mordente oggi, no, sul canale. Mi pare che non ho sentito nessuno. L'ho lasciato acceso, ma ero nell'altra stanza, boh. C'ero prima di andare a prendere la signora, io stavo parlando con Gio Maria. Ah, un pochino entrato, dai. Beh, io oggi ero distratto, mi stavo guardando la televisione. Un po' andavo, un po' venivo da una stanza all'altra. Sì, c'è una propagazione assurda, dà anche fastidio a me. O uno si mette in locale, si abbassa la ref gain e parla in locale. Che fa? Ma fa Pagucci? Dei buoni incontri. Boh. Ciao Arbacchi! Vabbè, vuol dire che quello è così, è quello tutto basso in alluminio. Addirittura 12, non dovrebbe nemmeno scaldare, ma ora se c'è la radio. Io ne sto usando adesso, non lo so quanti sono. A me me lo segna quanto sta dando, 13,5. 3,5, 1,5, 1,4, 1,5. Vabbè. Io al momento sto usando un alimentatore a lamelle vecchio tipo, non switching, della GBC da 5 a 7 ampere. E quindi non so esattamente quanto. Poi c'ho l'altro switching Roxel, ma quello lo uso ogni tanto così per cambiare, per farlo funzionare così. Beh, vi saluto che prima devo andare in bagno, poi danno tutto i ministri del governo che ancora non li ho visti bene. Fanno vedere tutti i ministri in base al coso, no? Ah, io ho visto il Vimmelli sta gira, sono visto tutto quanto, fino ad andare a coso del consiglio, andare. Ma e Salvini che ministro è? Vicepresidente della Camera, mi pare. Ministro dell'Interno e anche segretario del partito. Ministro dell'Interno Salvini. Aspetta quanti ne butta fuori di questi immigrati clandestini adesso. Ciao Giulio. Ciao Marco, ciao Antonio, ciao Bacchisio. Di Maio, ministro dell'economia. Sì, infatti. No, ma l'ha già detto, mi ha parlato anche stasera. Dice, cominciamo a fare piazza pulita. Trovato là Salvini, ministro dell'interno. Mamma mia. Va bene, dai, scappo in bagno. Ciao Giulio. Ciao Bacchisio, ciao Ottore. Devo andare in bagno. Ciao, ciao, chiudo. Buona proseguente di serata. Ok, ciao Marco, alle prossime ci sentiamo. E anch'io chiudo, dai. Marco, stasera ero sul 10. Quattro chiacchiere con Marco, con Marco Claudio, ma presto, era l'ora sì, allora. Poi metterò sempre al telefono con mio fratello un'ora, per cui non l'ho potuto modulare. Adesso devo scendere a cenare, dai, sono già le 8. Andiamo a cenare. Ciao Marco, ciao Tore, ciao Bacchisio, salutoni, ci sentiamo domani, scendo giù per cenare. Ciao a tutti, riprendete, vai Tore. Ok, ciao Giulio, ciao Marco, ci sentiamo alle prossime, ok. Che prende Bacchisio? Ciao Marco, buona serata, buona carica, anche buona discarica. Ciao Giulio, ciao Tizio, sono in casa, arrivederci domani, ti vuoi sentire. Sì. Io buro subito me andando a mandicare gli sociamenti e me andando a mandicare. Dai, ci sentiamo domani, Bacchi. Sì, domani, ma sì, anche io ero la parola, non lo so, io volevo scappare. Va benissimo, ciao Tore, salutissimi, saluto la signora, arrivederci domani su tutto il consiglio. Ok, bene, ciao ancora a tutti. Ciao Bacchi.